Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona domenica, nuova puntata estiva del rotocalco di Radio 24, ogni puntata dedicata a un colore dell'estate. Oggi tocca all'azzurro, azzurro come il cielo, il mare, gli occhi di qualcuno, azzurro come la serenità. È questo che auguro a tutti voi, serenità, felicità, ma anche consapevolezza di sé. Oggi impareremo infatti a conoscerci meglio grazie alla grafologia e alla nostra ospite. Ma poi avremo come sempre Francesca Dragotto, la nostra glottologa, e consigli per la lettura di Alessandra Tedesco, e giocheremo e videogiocheremo con Andrea Ligabue ed Emilio Cozzi, andremo al cinema, guarderemo la TV e ascolteremo anche la musica con Marta Cagnola, poi ascolteremo i consigli del nostro Marco Lombardi, il cinegustologo che unisce cinema a gusto, appunto, e finiremo proprio con quello, con il gusto del nostro gastronauta. Siccome tra poco partiremo con un ospite che ci parla di grafologia, anzi mi inviteremo a scrivere qualcosa su un foglio bianco per capire un po' della vostra personalità, mi è venuta in mente una canzone che rappresenta uno stato d'animo che tutti abbiamo costantemente: sentirci felici e confusi nello stesso momento. Da Libattino, buongiorno, buona domenica. Buongiorno, ciao. Buona domenica a tutti voi. I segreti della scrittura: conosci te stesso e gli altri con la grafologia. Oggi apriamo così. La grafologia, che è una scienza che studia la scrittura, ovviamente. Sì, infatti, attraverso la scrittura emerge il lato più nascosto del nostro io, ed è una scienza umana. Ci tengo anche a precisare che non predico il futuro. Ma perché qualcuno pensa che sì, tu predica il futuro. A volte mi dicono: qual è stata la mia scrittura vinco il Totocalcio? Assolutamente no. Non ci posso credere. È come un'impronta digitale, unica ed irripetibile. Allora, tu sei peritografologo, quindi sì. Questo significa che il tuo percorso anche di studio è stato particolarmente lungo e difficile. Sì. Sì, ben 5 anni, perché 3 anni grafologia e poi ci sono 2 anni per le specializzazioni, per la selezione personale, molto importante anche la grafologia per la selezione personale, per i disegni dei bambini. Anche i disegni dei bambini si trasmettono nel loro mondo interiore attraverso un semplice disegno. Anche il bambino che non sa ancora disegnare già ti può dire come sarà da adulto. Il bambino che fa il cerchio, che in grafologia viene definita curva, quindi il movimento molto armonioso, significa che è un bambino che socializzerà. Il bambino che fa dei movimenti tipo angolosità, vuol dire che un bambino sarà un bambino reattivo, un adulto reattivo. Allora, vi invito a scrivere, se non l'avete già fatto, su un foglio assolutamente bianco, quindi senza righe, senza quadretti, niente, qualunque cosa, qualche riga, giusto? Sì, è la firma, è importante la firma, Stefano. Sempre. La firma è il nostro io sociale, spesso è diversa dal testo, il testo è l'io privato, quindi vuol dire che una persona non vuol presentarsi all'altro in maniera perfetta, spesso ci sono svolazzi, i rigori. E quindi se invece la firma è uguale al testo, significa che la persona è uguale sia nel privato che nella vita sociale. Ah, quindi sono 2 aspetti differenti, sì. Quindi è interessante vedere le differenze. Sì, la firma è molto importante. Nel caso ci fossero. E allora, quindi vi invitiamo a scrivere queste righe, guardarle. Se avete qualche curiosità, perché avete già notato qualche particolarità nel vostro scritto, fatecelo sapere con un sms al 349-238-6666. Se invece non avete notato qualche particolarità, vi aiuteremo noi a cercarle, no? nel testo, insomma, con più che noi Candida aiuterà a cercarle, perché appunto in questo modo possiamo capire qualcosa di noi. Cominciamo a analizzare i margini della scrittura, quindi quanto si tiene lo spazio a destra e quanto a sinistra. Sì, infatti è molto importante, grazie della domanda Stefano, ormai sei quasi grafologo. Se una persona si stacca dal margine sinistro, la parte sinistra del foglio rappresenta il passato ed in particolare la figura materna e la famiglia d'origine. Vuol dire che una persona si stacca dal passato e va verso il futuro, che è rappresentato dalla parte destra del foglio. Quindi chi si stacca dal margine sinistro vuol dire che si stacca dalla famiglia. Se invece la persona sta praticamente attaccata al margine sinistro, significa che è una persona che vive in simbiosi con la famiglia e fa fatica a staccarsi, fa fatica ad affrontare il futuro. Viceversa, se invece la persona si va verso destra, quindi verso la parte, verso il futuro, vuol dire che si proietta verso il futuro. Se invece torna sempre indietro nella seconda riga si attacca al margine sinistro, vuol dire che ha paura di affrontare il futuro. Ecco, per capire quanto spazio, per capire se uno si è staccato o attaccato dal margine sinistro, un'indicazione qual è? Sì, più si stacca, più si stacca. È un'indicazione, nel senso che magari per uno staccato sono 5 mm, per uno invece sono... E beh, lì si fa, diciamo, una media. Bisogna vedere una media, bisogna guardare. Adesso guardare, vabbè, stiamo facendo un discorso è ovvio che non è... Nell'equilibrio, diciamo, della scrittura si capisce se uno si stacca o non si stacca dal margine. Sì, certo. Ecco, e invece quando... allora, i margini sono ovviamente destro e sinistro, poi uno potrebbe scrivere in modo di stare, diciamo, al centro del foglio, cioè senza mai... come se fosse scritto al computer, no? Con il... con la giustificazione del testo, per cui il testo, il margine destro e sinistro sono tendenzialmente identici. Non è che ti riguarda, Stefano? No, sto pensando come può essere. Non so, sbordare sempre da una parte o dall'altra. Ecco. Quindi se si posiziona il margine, staccalo. Lo stesso margine sia la parte sinistra che destra, vuol dire che è una persona che vive la quotidianità giorno per giorno. Quello che ho fatto ieri non mi interessa, quello che farò domani nemmeno, quindi vivo la mia quotidianità giorno per giorno. Il suo motto sarà carpe diem. Ecco, quindi io sono carpe diem, cioè questo è... Sì, stai vivendo intensamente questo momento sempre, insieme a me. Sono nel adesso presente. In questo momento. E invece se uno tende poi a sbordare dalla parte destra, ovviamente... E la parte destra ti dice, come ti chiamo, guarda il futuro. Sì, si proietta verso il futuro, quindi... Ci sono poi elementi invece discordanti, cioè non sono un segno del futuro, però poi è un segno della scrittura che lo fa tornare nel passato. Esatto, perché non inventando. È un singolo segno, certo. Ma l'insieme di segni ti dà la personalità completa. Faccio degli esempi, perché a me piace molto fare gli esempi. Io faccio un profilo di personalità e vedo che è una persona che socializza, espansiva, poi a un certo punto vedo che non socializza più. Cosa è successo nel corso della vita? Significa che poi trovo un altro segno dell'educazione rigida, quindi la persona quando era piccolo era molto vivace e la mamma o il genitore: stai fermo, non ti muovere, quindi si è richiuso, e lì appunto mi accorgo che nel è successo qualcosa di vita, esatto, quindi non perché è il singolo segno, la scrittura chiaramente cambia. Sì, poi c'è lo stato d'animo. Se una persona sta attraversando un momento particolare della sua vita, mi fa un certo segno, risolve il problema e il segno non lo fa c'è più. Il riposo del guerriero. Continuiamo a parlare di grafologia in questa puntata estiva del Riposo del Guerriero, dedicata ai colori, l'azzurro e quindi la serenità e anche la conoscenza di sé. Candida, ma adesso che insomma si scrive molto meno e si usa invece molto di più la tastiera, come si fa? Domanda molto interessante, e di solito adesso purtroppo digitiamo tutti, anch'io. E i ragazzi d'oggi cosa fanno? Scrivono in stampatello. Che non hanno, scrivere stampatello è come scrivere al computer, il movimento è statico. Lo stampatello o stampatello corsivo? Cioè, c'è anche lo script, per capirci. Sì, di più lo stampatello. Proprio lo stampatello, quello delle maiuscole, per capirci. Bravissimo. Quindi lo stampatello cos'è? Una forma di mascheramento della personalità. Vuol dire che la persona non vuole esporsi, non vuole dimostrare al lato quelle che in realtà... Però in realtà è anche dettato dalla quotidianità, del nostro digitare. Purtroppo quindi si fa fatica a fare la curva, che è il corsivo, il movimento armonico, perché... Quando tu dici, ti fai questo movimento, non si vede, però potete immaginarlo, ed è come scrivere in corsivo, non c'è l'armonia della curva del gesto, quindi si sta perdendo l'abitudine e mi dispiace veramente tanto. Io spero che con questo libro si inizi a scrivere un po' di più a mano, anche perché io lo dico sempre, scrivere un ti amo tramite email e un ti amo su un foglio di carta, cambia tutto. Non ho trovato nessuno che dice, preferisco quella dell'email, sinceramente. Neanche con gli emoticons, neanche con le faccine. No, neanche con le faccine. Francesco Di Fant, ciao, buona domenica. Buona domenica, Stefano. I segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo, anche quello non possiamo nascondere, proviamo a farlo, però intanto se io tendessi a nascondere il linguaggio del corpo mi chiudo, e quindi stai capendo che sto chiudendomi e che sto nascondendomi intanto, giusto? Quindi non riesco a nascondere il fatto che voglia nasconderlo, per capirci. Esattamente, sì, è una frase strana, ma è così, esattamente, specialmente quando le emozioni sono forti. Poi. Ecco, allora, quali sono le emozioni che con il linguaggio del corpo non possono mai essere nascoste, quindi emergono in qualche modo? Ma sicuramente più che quali emozioni, direi in quali situazioni, ovvero sì, l'intensità dell'emozione è importante, perché tutte le sei emozioni principali, che ricordiamolo sono paura, sorpresa, rabbia, disgusto, tristezza e felicità, possono essere in qualche modo modificate, manipolate, ecco, nascoste, oppure anche fatte vedere quando non ci sono, anche quella è una falsificazione, no? E ridere quando si è tristi, quando non si ha voglia, per esempio. Sì. Quella è una cosa che per esempio è abbastanza difficile, cioè si nota un sorriso falso. Su alcune emozioni siamo più preparati, per esempio, no? E anche in relazione a quanto le viviamo, per esempio, se io sono una persona rabbiosa, individuerò meglio la rabbia nell'altro perché sono più abituato. Quindi c'è anche un discorso di quanto noi siamo abituati, allineati a una singola emozione, per dire. Ecco, quando siamo innamorati e siamo davanti alla persona della quale siamo innamorati, cosa facciamo? Quali sono i gesti che inconsapevolmente facciamo, se ci sono dei gesti che facciamo e inconsapevolmente stiamo comunicando proprio quella cosa, anche se magari vorremmo nasconderla? Beh, sì, ci sono innanzitutto delle modificazioni fisiologiche a cui non possiamo, diciamo che non possiamo controllare, per esempio la pupilla dilatata è un segno di attrazione, oppure quando siamo imbarazzati, magari di fronte a una bella donna o a un certo tipo di situazione, possiamo diventare rossi, no? Nel senso il sangue va letteralmente al viso, quindi alcune cose sono abbastanza facili da rilevare. Poi ci sono altri movimenti come per esempio, ecco, aprire le braccia per mostrare la zona del tronco e passarci la mano in mezzo ai capelli, e piegare la testa leggermente di lato a mostrare disponibilità e sottomissione. Lato destro o sinistro è uguale, non è come la Livatino che cambia in destro o sinistro. È uguale. Diciamo che è uguale, diciamo più o meno che è uguale, ecco, sì. Non ci sono delle rilevanze scientifiche che identificano quale lato. Senti, una curiosità, quando si fa un'affermazione o si risponde a una domanda, il fatto che gli occhi guardino da una parte o dall'altra, quello ha un senso per un istante, no? Sì, certamente, quelli si chiamano accessi oculari, sì. Praticamente la PNL, la programmazione neurolinguistica, e appunto postula che a seconda di dove si guarda si può capire se una persona sta inventando oppure se sta ricordando effettivamente. Ecco, in questo caso il destro e il sinistro ha una valenza, il lato o no? Sì, esattamente, perché quando si guarda a sinistra si sta ricordando qualcosa, quando si guarda a destra si sta inventando, però questo per i destrimani, perché per molti mancini è invertito. Aspetta, quindi... mi fermo un attimo, domanda sì. A Candida. Per i mancini il discorso dei margini è uguale? Cioè il passato è... Sì, mio figlio è mancino, quindi... Quindi a sinistra è sempre il passato, sì, perché sì. Noi scriviamo in questo sì, senso. Sì, certo. Se scrivessimo al contrario sarebbe diverso, esatto. Sì, sì, non cambia. Tuo figlio, tra l'altro, ma scrive anche in arabo tuo figlio? Mio figlio, sì. Scusate, ma perché tutto nasce, dovete sapere, un pettegolezzo, dal figlio di Candida, che aveva una scrittura talmente orribile. Bravo. I professori dicevano, non capiamo niente. Sembra arabo. È un disturbato. Cosa dice? Invece no, anzi. Sembra arabo, di solito diciamo. Morale. E tu dici, ironico. Tu ti sei impuntato, dici, no, com'è mio figlio in realtà? Studiamo la sua calligrafia. Sì, l'ho portato da questa professoressa che poi è diventata la mia e lì ho scoperto questo mondo meraviglioso, mi sono iscritta per il morale della favola. Mio figlio, il problema qual era? Che la mano rincorreva la mente, quindi la velocità del pensiero. Adesso, ironia della sorte, mio figlio parla, scrive arabo meglio che in italiano, quindi era destino. Tanto là però è difficilissimo perché sposti il puntino. Ma scrive meglio tutto, in arabo, è incredibile. Come si chiama tuo figlio? Matteo. Complimenti quindi a Matteo. Allora, scusami Francesco, riprendiamo, no, era per capire, siccome c'era una domanda inerente al fatto di essere più o meno mancini o destrorsi e quindi cambiare anche l'interpretazione, invece cambia nel caso dello sguardo. Cos'altro non possiamo nascondere assolutamente delle nostre emozioni e del nostro corpo quando, non so, quando siamo ansiosi davanti a un colloquio di lavoro? Beh, quando siamo ansiosi la tensione è la cosa che più facilmente viene a galla nella persona, ovviamente possiamo controllare anche le emozioni singolarmente con un po' di sforzo e di concentrazione, la tensione, che è un po' trasversale diciamo a tantissime situazioni della nostra vita, viene quasi sempre a galla. Come viene a galla? Si tamburellano le dita, ci si mangiano le unghie, ci si tocca il nostro corpo, come accarezzarsi, a volersi rassicurare in qualche modo in una situazione di agitazione. Questi sono i principali elementi e poi ovviamente si è senza riposo, quindi magari se si è seduti su una sedia si cambia spesso postura, oppure si cammina avanti e indietro, ecco, ci sono molti modi in cui la tensione viene a galla e spesso non si può nascondere effettivamente. No, quella emerge e si vede assolutamente. Anche le bugie hanno le gambe corte, come tu scrivi nel tuo libro. Eh sì, le bugie hanno le gambe corte, però noi non è che abbiamo l'occhio lungo, nel senso che l'uomo è una macchina imperfetta per quanto riguarda la menzogna, ovvero l'uomo proprio geneticamente è un mediocre mentitore e un mediocre scopritore di bugie, quindi diciamo che la natura ci ha fornito di questi strumenti livellati tra di loro in qualche modo. E è vero che le bugie hanno le gambe corte, in particolare perché tutta l'opera di falsificazione, ma anche di omissione, è considerata menzogna, quindi anche non dirti qualche informazione che ti è utile per capire è considerata menzogna, caro Stefano. Ci sarebbero tante cose da scoprire, ma le potete conoscere con I segreti per parlare e capire il linguaggio del corpo. Newton Compton Editori, Francesco Di Fant, grazie, ci sentiamo ancora, perché sai che ogni tanto ti ripeschiamo, perché la curiosità è sempre tanta in questo senso. Buona domenica. Grazie, ciao. Buona domenica. Mi capita di cominciare a scrivere in corsivo, poi di continuare in stampatello e poi riprendere in corsivo. Cosa vuol dire grazie? Ti scrivono, ecco Candida. Ecco la risposta. Significa che quando c'è il corsivo la persona ha voglia di relazionarsi con l'esterno, apertura, invece lo stampatello è chiusura, quindi ha momenti di apertura e chiusura, quindi è una persona umorale. Questo vale anche, c'è un messaggio simile, dici io quando scrivo la A, a volte la scrivo in corsivo, a volte in stampatello, esatto. Stessa cosa. Quindi anche nello stesso momento ha voglia di stare con le persone e altri magari dopo 5-10 minuti non ha più voglia. Quindi. Salve, sono un mancino. E come molti mancini scrivo male. Innanzitutto, questa statistica è vera? Ho una scrittura tonda e infantile, cambiata pochissimo dall'infanzia a oggi. Ha un significato? Sì, certo, ha un significato, vuol dire che la persona inconsciamente non vuol crescere, vuol rimanere ancora legata ai bisogni primari, alla famiglia. Stento a credere che la grafologia abbia fondamento scientifico. Cosa vuoi che risponda? No, beh, non, non è un obbligo, cioè uno può crederci come non può crederci. Non è una disciplina, per una me scienza. È una scienza, sì. Non è una disciplina esoterica, ecco. No, è una scienza. Questo sicuramente. E ovviamente ci sono, addirittura, senti questo, ti leggo questo messaggio. Allora, il margine sinistro inizio con un centimetro e mi allontano dal margine ad ogni riga, sì. E alla fine la distanza diventa più del doppio. Sì, e che si stacca appunto sì. Sempre di più dal margine sinistro vuol dire che non ha vissuto in maniera soddisfacente il rapporto con la famiglia. Quindi tende a staccarsi. A staccarsi man mano, certo, rifugiandosi spesso anche nella fantasia per non affrontare magari la realtà. Ecco, quindi questo è anche un desiderio, potrebbe essere, non la realtà. Cioè io posso vivere ancora con la mia famiglia, ma il mio desiderio è quello di staccarmi. Sì, inconscio. Sì. Quindi si legge anche in questo senso la grafia, sì, ovviamente. Certo. Grazie Candida Livatino, vi ricordo il libro I segreti della scrittura, Sperling Edizioni. Il riposo del guerriero. Senti chi parla. Quando è nata, Francesca Dragotto è stata accolta con un bel fiocco rosa sulla porta di casa dei suoi genitori. Ovviamente, se fosse stata un bambino, il fiocco sarebbe stato azzurro. E l'azzurro è il colore di oggi, ma credo che sia anche associabile proprio al colore rosa. Non so se sto dicendo una cretinata oppure è vero. Ciao Francesca Dragotto, buona domenica. Buona domenica a te Stefano, buona domenica a tutti. Stai dicendo una cosa sensatissima che fa parte della nostra cultura. Allora, il rosa è cosa nota, è il colore della donna. Perché? Perché è un colore delicato, si ottiene dal bianco e dal rosso, è associato all'amore, alla dolcezza, alla gentilezza ed è appunto, come anticipavi tu, contrapposto all'azzurro, che è simbolo del mondo maschile fin dalla nascita. Perché? Perché appunto da tantissimo è invalsa l'abitudine di apporre al portone un fiocco azzurro se è nato un bambino e un fiocco rosa se invece è nata una bimba. Ora, la tradizione vuole che l'azzurro sia stato in origine associato al mondo maschile con l'auspicio che il bambino potesse ricevere la protezione celeste, cioè la protezione degli dèi. Quindi fiocco azzurro significa un bambino vestito di cielo, vestito della protezione divina. Stessa tradizione vuole che il rosa sia stato introdotto invece successivamente e che quella tonalità sia stata scelta per indicare la nascita di una bambina per associazione con il colore del sangue mestruale, simbolo antonomastico di femminilità, quindi due origini completamente differenti. Anche se io, scusami, così non sapendo né leggere né scrivere, come si suol dire, a me piace associare il rosa comunque al cielo, perché quando c'è il tramonto tutto il cielo si tinge di rosa e le nuvole, e quindi forse le due cose sono simili all'azzurro, no? Viene fuori l'anima romantica del Gallarini, così imprevista nel mese di agosto. Ma anche l'equità delle cose. Non mi piace, insomma, pensare che il rosa sia associato a quello e invece l'azzurro sia associato alla benedizione del cielo. Ecco, tutto qua. Vorrei che per tutte e due fosse così. La lingua e quindi la cultura, perché se vogliamo, anzi al contrario, la cultura e conseguentemente la lingua è foriera di numerose asimmetrie, e questa è soltanto una delle tante asimmetrie. Quindi le donne sono legate e ancorate, diciamo così, al loro periodo, questo è, diciamo ancora una volta. Diciamo l'idea della fertilità. Sì, ora possiamo anche prescindere dal fatto che le cose siano andate effettivamente così. Ora, ciò che conta è che però nella nostra società questa dicotomia è stabile, quindi la dicotomia è azzurro, maschio, rosa, femmina, sì, è stabile al punto tale da rendere molti di noi perplessi di fronte al cartone animato Barba Papà, un evergreen della televisione a partire dagli anni 80 in poi, che generazione dopo generazione continua a suscitare, e non solo in Italia, una domanda, sempre la stessa domanda: com'è possibile che Barba Papà in persona, quindi il capostipite, colui che ha dato il via a un'intera progenie, il maschio per antonomasia, sia rosa? Com'è possibile? Ci sono interi gruppi di discussione, persone che si confrontano sulle possibili spiegazioni di questa cosa che sembra non conciliabile con quello che, con la nostra visione, con la nostra organizzazione del mondo. Certo, allora, le ipotesi. Scusami, aggiungo una domanda: perché Puffetta allora è blu e non è rosa? Ma sono tutti lì, si tratta del blu che sostituisce l'incarnato, ma per tutti, sia per maschi che per, sia per uomini che per donne. Era soltanto una battuta, ovviamente, perché in un mondo dei puffi dove sono tutti uomini, l'unica puffetta è blu anche lei, questo volevo dire. Mentre nel caso di Barba Papà si tratta dell'unico personaggio rosa, perché gli altri hanno tutti colori diversi l'uno dall'altro. Perché? Ora ci sono varie ipotesi, alcune veramente cervellotiche, che però ci danno l'idea di quanto abbia costituito un problema l'idea dell'associazione del maschio capostipite con il rosa. Allora, c'è chi sostiene che, essendo stato Barba Papà il primo a spuntare dalla terra innaffiata dal bambino Francesco, François, nell'edizione francese originale, la stessa terra da cui poi sarebbero via via spuntati gli altri membri della famiglia, il rosa di Barba Papà fosse sia da ricollegare proprio al colore della terra. C'è chi addirittura invece è andato a controllare il curriculum degli autori di Barba Papà, scoprendo che uno di costoro è biologo e quindi ha spiegato questa preferenza per il rosa con la formazione in ambito, appunto, in ambito naturalistico dell'autore. Però ecco, io trovo che sia interessante il fatto che ci sia una discussione. Perché? Perché significa che è talmente forte l'associazione con l'azzurro da creare un vero e proprio problema nel momento in cui questa associazione non viene rispettata, viene spezzata. E del resto, cambio completamente ambito di riferimento e passo alla pubblicità, il fatto di non rispettare questa associazione ha causato un imprevisto piuttosto pericoloso in occasione della diffusione dello spot di un prodotto della linea Tantum. Sto parlando, probabilmente te lo ricorderai, di quello spot che il cui claim, il cui slogan era sì, rosa mi fa stare meglio, lo spot appunto di Tantum Rosa, in cui la protagonista dello spot, ovvero la rappresentante di turno della famiglia Boccasana, che da tanti anni ormai accompagna il Tantum Verde, non solo, appunto, il Tantum Verde, ha indotto tantissime donne ad assumere per bocca e non per via esterna la lavanda vaginale. Certo, perché il Tantum Rosa hanno associato al Tantum Verde, che si serve per fare gli sciacqui in bocca, e anche il Tantum Rosa serve per la stessa cosa, e invece l'idea era di usarlo in un altro modo. modo, hanno dovuto specificarlo poi anche sì, ci nella sono pubblicità. Stati tantissimi casi di avvelenamento che hanno poi portato esatto a quella spiegazione in sovraimpressione nel corso della pubblicità, ma qui vediamo proprio il caso di una interferenza tra una funzione che è quella del colluttorio, evidentemente Tantum è associato al colluttorio anche per la scelta di bocca sana, e un colore che nell'ottica di chi ha creato quella linea di prodotti doveva inequivocabilmente essere legato alla sfera intima, alla sfera femminile, però in questo caso la cultura pubblicitaria ha vinto sulla natura, la natura del rosa, e quindi la lavanda è stata ingerita. Ecco, perché l'azzurro è associato, visto che comunque si parlava di azzurro oggi, ma non soltanto, perché abbiamo visto come i due colori sono vicini all'arabo? Più esattamente al persiano, nonostante, sì, dici giustamente all'arabo, perché per molti il persiano e l'arabo non sono due lingue completamente distinte, cioè si tende a dire parli arabo per indicare tutto quello che tutto è storico, quell'area, tutto quello diciamo, che, sì, tutta quell'area, esattamente. Parliamo invece di una parola persiana che appartiene alle lingue iraniche, quindi una lingua indoeuropea, esattamente come indoeuropeo il latino, il greco, l'inglese, cioè tutte le lingue celtiche, le lingue germaniche. Nell'immaginario collettivo però appunto azzurro è associato all'arabo. Arabo, anche per via della contaminazione tra le due lingue, quindi persiano e arabo, a seguito della conquista islamica. Oltre ad azzurro, perché non si tratta di un caso isolato, è stato recepito dall'arabo, sì appunto dal persiano, chiedo scusa, lapislazzuli, che indica appunto una pietra di colore azzurro, ma anche altre parole, cito solo le principali: gelsomino, carovana, bazar, scacco e persino spinaci. Anche un altro colore è stato preso in prestito dal persiano ed è il colore scarlatto. Se invece vogliamo focalizzare l'attenzione sui prestiti dall'arabo, quindi non più sui prestiti persiani ma proprio su quelli arabi, va detto che benché si tratti di un numero esiguo di prestiti in epoca moderna, nei primi secoli della nostra lingua l'influsso dell'arabo è stato invece fortissimo, anche ovviamente per ragioni storiche. Quindi il contatto tra cultura araba e lingue occidentali, con la nostra, in questo caso con la nostra, è stato talmente profondo da farci perdere consapevolezza del fatto che tanti termini che oggi riteniamo perfettamente italiani erano invece per l'appunto in origine arabi. Ne cito alcuni per farvi vedere proprio quanto siano radicati: ragazzo, magazzino, tariffa, cotone, albicocca, arancio, melanzana. Pensiamo a quante identità vengono associate al consumo di un prodotto. Io sono italiano, io sono di una regione o addirittura di un paese perché mangio questo prodotto, e quindi rivendichiamo l'identità attraverso un cibo, e poi magari questo cibo insieme al nome che lo contraddistingue, che lo denota, è stato preso in prestito da una cultura così lontana. Lo stesso si può dire per carciofo, limone, e la lista si potrebbe davvero prolungare. Ecco, quindi in realtà noi parliamo arabo anche senza saperlo. Questo alla tutte fine. Le volte sì che diciamo califfo, essere in auge, mi riferisco alla seconda parte, auge, almanacco, assassino, utilizziamo degli arabismi senza sapere che lo sono. Dagli arabi, ecco sì, ecco un'ultima nota, dagli arabi sì. Abbiamo ereditato nomi comuni e aggettivi in quantità, non però nomi di persona, quindi questo non può che significare una cosa, che gli odierni cognomi italiani di origine araba non derivano da cognomi arabi ma di nomi che sono stati inizialmente presi a mo' di soprannome per identificare chi li portava. Il riposo del guerriero. Parliamo di libri con il nostro cacciatore di libri, cacciatrice, dovrei dire, Alessandra Tedesco. Ciao. Buongiorno. Eccoci. A tutti. Però si intitola così, il cacciatore di libri, quindi. Eh sì, l'abbiamo declinato. Ma va bene, così va bene. In Italia si usa, ma insomma, sì. Declinare al maschile come se fosse un neutro, e allora. Ma va bene così anche perché dobbiamo oggi essere sereni, visto che l'azzurro sì, guarda, è il colore chiave. Il colore della serenità, proprio della gioia, ma di quella gioia completa a 360 interiore. Gradi. Sì, sì, quella che si prova da bambini. E poi non più? No, poi si prova, appunto, caspiterino, altrimenti che fatica si vivere. Si comincia no. A curare da bambini e dopo... e poi ecco. Si ritrova, insomma, ogni tanto nella vita, assolutamente. È per questo con una delle copertine azzurra, vedo. Sì, una delle copertine sì. Azzurra, ed è un po' uno dei casi editoriali degli ultimi 2 anni, si intitola... Wonder. L'ha scritto, è uno pseudonimo, R.J. Palacio, in realtà è lo pseudonimo di una scrittrice di lingua spagnola che ha appunto lavorato proprio nelle case editrici e poi si è dedicata anche alla letteratura per ragazzi. Esistono, in Italia è pubblicato da Giunti, esistono due versioni di questo libro Wonder, l'edizione per ragazzi fino ai 12 anni e l'edizione per adulti. Il contenuto è identico, cambia solo la copertina, quindi così hanno fatto un gioco commerciale però divertente. Non sono delle scene tagliate? No, nessuna delle scene... Delle parti di pagine che devi aprire col coltello, come una volta Due Più, c'era questa rivista che parlava di educazione sessuale, credo degli anni 70. Non ero nata. E aveva... all'interno sì dall'altra parte del vetro ridono, sì, ero nata, ok, della rivista c'erano delle pagine che tu potevi leggere soltanto aprendole col coltello perché erano unite. Ah, ok, quindi insomma erano vietati ai minori. No, qua non c'è niente di vietato, anzi la storia è veramente molto tenera, sembra triste ma in realtà dà una gioia interiore, è ispirata ad un fatto vero che ha visto questa Raquel Jaramillo, appunto questa scrittrice, è la storia di un bambino che ha una stranissima sindrome, una malattia, il corpo è normale ma il viso è completamente deformato, quindi ha una vita molto molto complicata, eppure insieme alla sua famiglia e al suo cane riesce a rendere tutto ciò che lo circonda molto sereno nei suoi confronti, e leggere questo libro veramente ti cambia l'atteggiamento nei confronti della vita. Leggo qualche commento, insomma, anche a livello internazionale. Il Wall Street Journal aveva scritto: la bella, divertente, a tratti commovente storia di una trasformazione. Il New York Times: il grande talento di Palacio è quello di rendere superabili i problemi di Huggy, che è il protagonista, al punto di renderlo una persona invidiabile. Ecco. Riuscire a invidiare una persona per i suoi problemi è forse lo stato migliore della gioia. È vero, una sorta di remida della serenità. Esattamente, una remida della serenità. Quindi questo è un libro che vi consiglio vivamente, Wonder, R.J. Palacio, pubblicato da Giunti. Tra l'altro, se non vi ricordate i titoli che vi cito, come al solito potete scrivermi a ilcacciatoredilibri@radio24.it e naturalmente vi darò tutte le indicazioni. Poi c'è anche la pagina di Facebook del Riposo del Guerriero, dove citiamo comunque le cose delle quali parliamo durante la trasmissione. Assolutamente. C'è un altro libro che dà gioia, cioè, la gioia, ecco, non è il divertimento, è quella cosa lì, è un'altra cosa, è un libro che secondo me può dare gioia, è un libro di una scrittrice veramente straordinaria, lei si chiama Elizabeth Strout, ha vinto anche il premio Pulitzer in America alcuni anni fa, e, per esempio, una scrittrice amatissima dal nostro Paolo Giordano, ma anche da molti scrittori italiani. Appena sentono il suo nome veramente vedono la luce, insomma, come si dice. E questo libro si intitola I ragazzi Burgess, ma non so la pronuncia esatta, è pubblicato in Italia da Fazzi, ed è la storia di un gruppo appunto di fratelli che si disperde, insomma, nel mondo, e poi si ritrovano per una determinata ragione. Qui è il senso della famiglia, della solidarietà, della fratellanza che dà un profondo senso di gioia anche nelle difficoltà della vita. Ecco, una ragione casuale? E quindi si incontrano per caso oppure c'è una ragione che li fa incontrare volontariamente? Una ragione che li fa incontrare, una delle sorelle appunto che chiede aiuto, adesso non racconto troppo perché sennò solo si... per capire se fosse ecco, casuale i libri, per esempio io quando scelgo un libro guardo la copertina, il titolo e l'incipit, non leggo mai la bandella perché non voglio assolutamente sapere perché racconta già troppo. Quindi non fai come Oscar Wilde che diceva che non leggeva mai i libri che doveva criticare, sennò ne sarebbe rimasto influenzato. Ha ragione, anche io quando parlo dei libri non li leggo mai. Oscar Wilde era veramente un grande. E poi per terminare con un italiano, sai che comunque insomma un po' di Made in Italy va comunque supportato, lo sappiamo, forse l'abbiamo letto tutti, io l'ho letto 25 volte, il famoso Trascurabili momenti di felicità di Francesco Piccolo. Tra l'altro Francesco Piccolo pubblicherà in autunno un nuovo attesissimo libro, c'è chi dice addirittura sarà il nuovo premio Strega, ma come fanno a dirlo, ancora deve essere pubblicato il libro. Comunque Francesco Piccolo con questi Trascurabili momenti di felicità mi ha divertito, mi ha fatto ritrovare una gioia interiore, perché non è solo divertimento ma è riflessione sulla gioia. E allora, per averne così una versione diversa, io sai che ho fatto? Mi sono comprata l'audiolibro e lo tengo in macchina. Ogni tanto, quando sono ferma nelle code, eccetera, lo metto su il CD e mi ascolto così qualche aforismo. Ecco, dicevamo Wilde, prima citevamo, invece qualche aforismo alla Francesco Piccolo, così per ritrovare un po' di serenità nella follia cittadina. Sentiamolo. La domenica mattina, piuttosto presto, quando la città è vuota e silenziosa e bellissima, me ne esco e vado in giro. E succede sempre che ne incontro due o tre, una volta addirittura cinque, qualche volta una sola, mai nessuna. Sono certe donne dal viso pallido e il trucco sfregiato, infilate dentro vestiti eleganti e tacchi alti, con i visi mattinieri della notte quasi insonne e gli abiti stonati del sabato sera. Addirittura qualcosa che luccica sul volto, sul vestito o sul cappotto. Qualche volta devo girare per molti quartieri, ma alla fine lo sento quel rumore di tacchi, oppure quel portone che si apre e una di loro compare strizzando gli occhi contro il fastidio del mattino. Ha passato la notte a casa di qualcuno e adesso cerca un bar, che non sa dove sia, per prendere un cappuccino prima di tornare a casa. È fuori luogo. Appartiene al giorno prima e non c'entra nulla con la domenica mattina. Eppure è bellissima, è pallida e confusa, stordita dalla stanchezza, esausta, ma di una felicità sottile che si nasconde sotto l'aria confusa come sotto un tappeto. Subito la seguo nel bar, prendo anch'io un cappuccino un po' distante, ma potendola guardare senza parlare, senza alcuna intenzione di rivolgerle la parola, solo seguendo ogni movimento, quel modo di girare il cucchiaino lentamente, fissando di continuo un punto vuoto, sbadigliando, a volte dimenticandosi di pagare. Fino a quando non si dirige verso l'uscita, il rumore dei tacchi nel silenzio. Apre la porta del bar e va. E solo adesso è davvero il momento in cui ieri sera è finito. Ecco, questa è la voce di Francesco Piccolo. Sì, sì, è la sua voce, decisamente. Questo audiolibro prodotto da Emons, appunto, tendono a far leggere i libri a chi li ha scritti, in questo caso appunto Francesco Piccolo. Cosa pensi degli audiolibri che hanno un grande successo negli Stati Uniti? Perché fanno questi lunghissimi viaggi, sì. Anche un po' forse per tradizione. Noi non abbiamo una grande tradizione, no, dell'audiolibro. Per niente, forse audiolibri. Perché poi non percorriamo, insomma, così tanti chilometri andando, ma per andare a lavorare. Sì, forse anche quello, ma credo che sia proprio una questione di abitudine. Veramente noi non abbiamo neanche l'abitudine a leggere. Vorrei sempre ricordare che più della metà degli italiani non legge neanche un libro all'anno, capisci? Neanche un libro all'anno. Quindi, insomma, lasciamo stare. Gli audiolibri sono una cosa piacevole, ecco, magari secondo me a una certa età, quando non riesci più a vedere bene, allora li ascolti, oppure appunto quando sei in macchina. Però devono essere per me cose un po' brevi, altrimenti mi concentro troppo e sì. Mi distraggo alla guida. Sì, quindi, certo. Insomma, sei lì questo... che vai a cercare un po' le parole mentre le ascolti, esattamente. Come se potessi leggerle, no? Quindi è così. Bene, grazie, sono Tedesco. Voglio ricordare ancora l'appuntamento con la versione estiva del Cacciatore di Libri. Il Cacciatore di Libri, parole e musica, ogni sabato alle 16, la versione tradizionale, ogni sabato 6:45, replica 21:05. Il riposo del guerriero. Giochi e videogiochi. Anche d'estate giochiamo e videogiochiamo con la felicità dell'azzurro, visto che questo è il colore tema. Ciao Andrea Ligabue, ciao Emilio Cozzi. Allora, è curioso come il mondo dei giochi abbia preso in prestito il mondo dei videogiochi, almeno nel caso di un titolo che oggi ci citerai. Sì, Andrea. Oggi vi volevo parlare, innanzitutto buona domenica a tutti, oggi vi volevo parlare di Steam Park, che è un gioco non ancora uscito, quindi diciamo... verrà presentata a fine settembre, inizio ottobre, probabilmente uscirà la fiera di Essen, ed è della Cranio Creation, ed è un gioco in cui i giocatori devono costruire il loro parco dei divertimenti. E come dice Stefano, è chiara l'ispirazione a tutta la tradizione dei videogiochi di questo tipo, da Roller Coaster Tycoon a lo stesso Theme Park, in quel caso si intitolava. E io mi ricordo, non so, tu mi ricordavi che in questo videogioco, se tu facevi delle montagne russe particolarmente arzigogolante, i bambini uscivano stando male. Giustamente. E li dovevi mettere vicino all'ambulanzina che portava via. E poi io mi divertivo per guadagnare più soldi nelle bevande a mettere molto sale nelle patatine. E poi ditemi che i videogiochi non sono una cosa seria. Creativi. Infatti erano creativi perché ti facevano capire come alterando delle cose tu riuscivi a guadagnare di più da una parte e meno dall'altra, perché i bambini poi quando andavano su le cose stavano male, quindi non tornavano più. Certo. E quindi dovevi cercare di fare le cose un po', insomma, però se fossero state troppo noiose non sarebbero tornati lo stesso. Certo. Però le sale delle patatine l'ho scoperto a un certo punto, siccome potevi decidere tu la quantità e potevi anche diminuire la quantità di sciroppo nelle bevande e quindi risparmiare, però poi le bevande non erano certo gustose. Tu pensa, dico una cosa che come dire, è marginale, ma questo tipo di dinamiche sono estremamente complesse. Molto. Ma i bambini le imparano con molta più facilità che non so, rispetto alle l'analisi grammaticale, allora è molto più complessa, per loro è molto più complessa, mentre dinamiche di questo tipo che sono veramente articolate sono imparate quasi come dovremmo far governare i bambini, allora questo, cioè governare non governare, ma far prendere decisioni manageriali ai bambini, forse. Non so, magari, no, lo dico semplicemente perché questi giochi davvero aiutano a fare delle scelte manageriali, certo. Perché ti fanno capire davvero le dinamiche, come sposta una scelta, sposta completamente a lungo termine il risultato. Con un sottotesto, mica tanto sottotesto, morale, se ci pensi, no? Perché ogni scelta comporta delle conseguenze sul mondo, simulato in quel caso, ma che riguarda altre persone, altre entità digitali. Esatto, coinvolti. Come dico sempre, nelle scuole strategia e tattica sono delle doti fondamentali nella vita che nessun insegnamento frontale è in grado di insegnare ai bambini. Il gioco invece glielo insegni in maniera naturale. Perché lo applica quindi poi tu ti rendi conto da solo della dinamica e quindi alla fine la tua scelta cosa ti ha portato, e quindi se perdi ti girano un po' le scatole, insomma. Esatto. Andiamo avanti, scusa. Allora, no, un altro gioco che volevo citare in realtà è un gioco degli anni 80, un gioco di ruolo, quindi per una volta tanto abbandono il terreno dei giochi da tavolo per parlare dei giochi di ruolo, ed è Toons e Cartoons, un gioco in cui i giocatori erano dei personaggi dei cartoni animati, e il gioco era molto destrutturato e aveva poche regole, e potevano succedere le cose tipiche dei cartoni animati, come ad esempio quando si taglia un albero e cade tutto l'albero e uno rimane in piedi sul ramo. E la cosa particolare, per cui lo collego al tema della puntata di oggi, è che i giocatori facevano punti se riuscivano a fare ridere l'arbitro del gioco, il master, quindi se uno riusciva a fare una gag durante la partita in cui il master rideva riceveva dei punti, e quindi il suo personaggio diventava più abile, più bravo o aveva gadget nuovi. L'ultimo gioco di cui parlo invece è un gioco diffusissimo, si chiama Munchkin ed è un gioco di carte che è una parodia dei classici giochi di ruolo, in particolare di Dungeons and Dragons. I giocatori sono dei personaggi che devono andare a combattere e esplorare questo mondo, però tutto fatto in maniera scherzosa e ironica, cioè tutte le carte fanno riferimento all'immaginario tipico del fantasy e del gioco di ruolo in maniera grottesca, ridicola, creando continuamente nel corso della partita situazioni divertenti. Quindi è un gioco in cui, pur non essendo un vero e proprio party game, è un gioco in cui ci si diverte e la felicità dentro il tavolo. In Italia è prodotto dalla Raven Distribution. Ecco, poi i giochi, anche i videogiochi, ma i giochi rendono sempre felici, lo diciamo. Sì, ecco, esatto. Comunque. Anche se, ecco, volevo, prima di passare ai videogiochi con Emilio, volevo con te ancora una volta sottolineare l'approccio che tu hai verso il gioco quando si tratta di avere a che fare con bambini, perché il perdere in un gioco non sempre fa bene, quindi bisogna... Sì, io diciamo dico sempre che secondo me i bambini devono essere educati a giocare, e per essere educati a giocare devono essere divertirsi nel giocare. Per divertirsi un bambino, che è una persona essenzialmente egocentrica, da piccolo deve vincere. Quindi un bambino nel gioco deve trovare sicurezze, gratificazione e divertimento. E quindi essenzialmente il compito dell'adulto che gioca con un bambino è secondo me di farlo vincere, aumentando man mano che le competenze del bambino aumentano le difficoltà in cui il bambino si trova a dover far fronte. Poi col tempo ci sarà anche la possibilità di abituarlo a insegnargli a perdere, ma prima di tutto bisogna collegare il momento del gioco, soprattutto il momento del gioco insieme all'adulto o sì. al fratello, a un momento di felicità per il bambino, e perdere non è mai felice per nessuno. Ecco, lo dico anche perché bisogna farlo con intelligenza, nel senso che non bisogna farsi beccare, ecco, perché esatto. se il bambino capisce che tu stai facendo apposta a perdere, penso che la dinamica lì... Esatto. Ci sono giochi particolarmente adatti, già innanzitutto un genitore adulto è in grado di fare scelte strategiche sbagliate senza che il bambino se ne accorga, che portano alla sconfitta, oppure basta giocare a giochi basati sulla memoria o su certi tipi di abilità che i bambini hanno immensamente in maniera molto più Me sviluppata. Li perderei senza sì, bleffare. Esatto, quindi uno non deve bleffare e perde. Automaticamente. Ecco, lo dicevo perché insomma d'estate le occasioni magari per i genitori per giocare con i propri figli aumentano sì. e quindi è un aspetto da considerare, perché anche un genitore dice io voglio vincere perché no. sono genitore, voglio far vedere che ho la forza del sapere, invece no, non esatto. è proprio così. Il gioco è palestra di vita, nel senso che può insegnare delle cose, però io sono convinto che i bambini le loro diciamo sconfitte o le loro delusioni ce le hanno già abbastanza nella vita, nel momento in cui giocano devono divertirsi, e divertirsi è anche gratificazione. Mi lanciate una palla perfetta, spero di segnare e non mandarla in tribuna. Ma il videogioco invece, o meglio il buon videogioco, questa cosa la fa in automatico, nel senso il famoso concetto di flow, cioè l'equilibrio tra la difficoltà e l'abilità dell'utente, quindi un buon gioco ce l'ha calibrato questa sorta di diagramma vera e propria, c'è cioè un equilibrio estremamente alcuni giochi concepito, lo cambiano poi durante assolutamente sì in modo tale da non esatto in modo tale da non frustrare il giocatore né annoiarlo. Questa però posso cosa... dire una cosa sì. i videogiochi oggi sono facilissimi. Dipende. Cioè, negli anni 80 i primi videogiochi erano veramente difficilissimi, cioè arrivavi al secondo e al terzo livello era impossibile da superare. Questo è vero, per c'erano cioè, delle abilità pazzesche, perché intanto non avevano questa logica della difficoltà che aumentava ma partiva già difficile. Esatto. E poi era anche diverso il concetto di videogioco, non, senza menzionare quelli da bar, gli arcade da bar, sì, laddove la difficoltà da lì, Esatto, esattamente, perché il motivo era molto semplice, tu dovevi durare il meno possibile perché pagavi ogni partita. Sì, certo. Adesso c'è esattamente il concetto opposto nella produzione. C'è un gioco come Mass Effect, deve durare, sono giochi che durano 100 ore, perché, come dire, l'utente che ha pagato 60, 70, 80 euro deve, come dire, deve averli ben spesi. E questo è un concetto completamente diverso di game design. Hai ragione tu, sono cambiati radicalmente, in questo vedi veramente i tempi, no? I tempi e gli stili produttivi. Oggi quando un gioco è troppo difficile viene mollato, viene certo. lasciato dalla maggior parte dei giocatori perché hanno tanti titoli a disposizione. E poi, come dici tu, se hanno speso molto e il gioco è breve, si arrabbiano esatto, perché hanno speso molto esatto. per poco. Posto che, e torno al concetto del flow, il gran videogioco, quello ben concepito, ha questa, come dire, polimorficità, cioè si adatta all'abilità dell'utente. Addirittura c'è un gioco fatto tra l'altro da un italiano, Stefano Gualeni, quindi lo cito volentieri, che si basa su rilevamenti biometrici, cioè registra, questo in fase di progettazione, purtroppo ancora in tempo reale è ancora troppo difficile, registra le reazioni dell'utente e in base alla pulsazione cardiaca, addirittura alla dilatazione della pupilla, si regola. Ed è una cosa eccezionale, se voi ci pensate. Quindi l'utente, il bambino, ma anche non solo lui, non si annoia né è frustrato. È la giusta via di mezzo, in modo che sia il gioco e il videogiocare sia sempre felicità, appunto. Esatto. I tuoi titoli? I miei titoli, ecco, sulla felicità io partirei da una cosa invece che non è la felicità, è il suo contrario. Cioè, intanto, come dire, premessa, le emozioni sono il futuro dal mio punto di vista dei videogiochi. Sì. Stanno uscendo videogiochi che parlano di emozioni adulte, perché il pubblico è sempre più adulto quello di videogiochi. Penso a The Last of Us, anche grossi, tra virgolette, blockbuster, hanno ormai capito che sparare e distruggere l'astronave un pochino limitante. L'ultimo Lara Croft, faccio un esempio, e dimostra come il personaggio parte terrorizzato esatto. con un sacco di ansia e te la riesce a trasmettere perfettamente. Verissimo. Perché se noi ci trovassimo in quella condizione saremmo esattamente così. Esattamente. E poi mano a mano lei si adatta e quindi cambia proprio anche la dinamica del carattere, giustamente. Sono perfettamente d'accordo. Penso a un gioco atteso, uscirà breve, Beyond Two Souls, interpretato, famoso perché interpretato da Ellen Page e Willem Dafoe, un gioco di quelli cinematografici, anche se lo dico mettendomi in avanti chi come dire mi segue sa che odio questa definizione, però un gioco che parla di anima, parla di al di là in maniera estremamente seria. E penso a un gioco del 2012 Papo Io di Vander Caballero, che è un game designer che addirittura ha, come dire, esorcizzato la propria infanzia con un padre alcolista, alcolizzato, buttandolo in un videogioco. C'è questo bambino, tra virgolette un puzzle game, non è esattamente così, che deve nascondersi da un mostro che in realtà è il padre, che si trasforma in alcune condizioni, evidentemente una metafora piuttosto esplicita. O penso a tutta la produzione di Dead Game Company, la software house di Chen e di Santiago, che ha basato tutta la propria produzione sulle emozioni, Flow, Flowers e Journey, che è premiatissimo, un gioco che secondo me addirittura evoca il senso di sacro. Si gioca in uno, forse in due, non si sa se l'altro giocatore incontrato è vero o no, si attraversa un deserto verso non si sa cosa, ma andando verso una direzione ben precisa e senza che succeda nient'altro. Si possono mettere solo suoni, vi assicuro che io ne parlo, mi viene la pelle d'oca, ne parlo anche perché è uscita adesso la versione da collezione, che consiglio a tutti. Grazie Emilio Cozzi, grazie Andrea Ligabue. Gli aggiornamenti sul traffico e Riposo del Guerriero torna fra poco. Il riposo del guerriero. Molto di più di 140 caratteri, abbiamo un po' di minuti da trascorrere con Marta Cagnola. Ciao Marta. Ci stanno un sacco di tweet in un po' di minuti, finalmente si parla. Esatto, è importante anche questo, va bene essere stringati, ma è bello anche raccontare le cose. Vi raccontiamo, anzi vi racconta Marta, di cinema, musica e televisione. Il teatro poi lo riprenderemo con la stagione perché, nuova, sì, ecco. Perché ci sono già un po' di stagioni, sì, da raccontare, annunciare. Sì. Sì. Allora cominciamo come sempre con il cinema. Oggi il colore dominante è l'azzurro, e per cui dobbiamo azzurro. Ma quante volte l'hai già cantata oggi? Troppo, ogni volta che tu dici quella parola azzurro viene in mente la canzone di Paolo Conte. Sì, sempre. Comunque non, anche tu, anche a me. Vabbè, siamo nati con quella nelle orecchie e continuiamo a portarla avanti. Azzurro, cinema azzurro. Beh, volevo riprendere un po' il discorso che abbiamo iniziato la scorsa settimana con le commedie. La commedia all'italiana, diciamo l'italiana di oggi, anche sì, se abbiamo visto che Zalone forse riprenderà forse un po'. Forse qualche stilema lo riprende. Io a volte tendo a chiamarla oggi commedia italiana, perché magari perché sì, mi sembra un po' lesa maestà. No, ma sono d'accordo. All'italiana è quella là. È quella là, ecco, certo. Quindi io la chiamo commedia italiana. Giusto. Con tutto il rispetto, perché sono comunque una che si diverte moltissimo a guardare film italiani e mi piacciono tanti registi, tanti attori, a volte anche con dell'affetto che me li fa vedere, che mi fa giudicare a volte più favorevolmente alcuni film, ma insomma diamo anche una mano a questa industria cinematografica, sì, che fa proprio fatica. Allora, ho guardato un po' tra i film, come abbiamo fatto le scorse settimane, in uscita tra settembre, ottobre, novembre, dicembre, quando poi ci si avvicina a Natale, e lì sarà, gli incassi sono particolarmente significativi e decidono un intero anno di investimenti per i film dell'anno successivo o dei due anni successivi. Sai che fino ad oggi mi è capitato solo una volta nella mia vita di andare al cinema a Natale. A Natale? Sì, il 25. Il 25. Poi non è mai più successo. C'è proprio un periodo in cui al cinema io non vado, quello. Ecco, non so io posso perché. Farti un coming out, sì, clamoroso. Sì, devi, vai. Allora, io non vado mai al cinema a Natale, anche perché in realtà... Non va mai al cinema la Cagnola, perché tanto la invitano alle anteprime, per cui lei va nei piccoli cinema, nelle sale di proiezione. Io vado sempre, sì, a vedere i film la mattina, così. Non al cinema. Non al cinema. Ma tutti gli anni con un gruppo di amici, sì, ognuno a casa sua o anche vedendosi, la sera del 25 dicembre riguardiamo Vacanze di Natale 83. Ah, sempre lo stesso film, certo, guardate? Certo. Ho capito. So che lo fanno in tanti. Sì, sì, certo. Bisogna prima un centro allora di, diciamo, di cura, perché sì, sì, credo che sia. Sì, lo riguardiamo. Cioè, almeno cambiare il film. No, cioè, no, 83, no. Prima 84, Natale... 85, no. No, solo perché 80... solo quello solo vero. Quello. E poi c'è, certo, una domenica però variabile prima di Natale, in cui organizzo una festa con degli amici, tra cui uno, sì, molto noto agli ascoltatori di Radio 24, che è Tommaso Labranca, che è l'organizzatore della festa a casa sua, e guardiamo ogni anno il video di Last Christmas almeno due volte, ecco, lo ripassiamo. Ma cosa fate? Fate come però che ho il Picture Show, quindi non so se c'è la pioggia, vi gettate l'acqua addosso, il riso, queste cose, esatto, il giornale, cose. Ho fatto anche quello tante volte, no, quello no, però insomma, ogni anno scopriamo. Ho capito, allora vabbè, torniamo. Beh, il 18 agosto non parliamo di Natale. Esatto. Allora, quali film usciranno? Sì. Abbiamo citato il teatro, sì, nasce da un'avventura teatrale, una piccola impresa meridionale di e con Rocco Papaleo. Perché ho pensato a questo film? Perché ho pensato azzurro, felicità, serenità. Insomma, a volte la serenità si può ritrovare anche in condizioni difficili e tragicomiche, come è il caso di questa piccola impresa meridionale di Rocco Papaleo. Perché la storia di Don Costantino, che è lo stesso Papaleo, prete spretato, che però per vergogna viene confinato dalla madre in un faro, perché il paese non deve sapere. La madre però ha un altro problema da risolvere, un altro scandalo. La figlia Rosa Maria ha lasciato il marito Arturo, che poi Riccardo Scamarcio. E il faro Scamarcio, è uno solo, non è che può metterlo da un'altra esatto, parte. Ed è scappata con l'amante. Cioè. Quindi insomma, cosa succede? Che questo faro comincia a popolarsi, diventa una sorta di refugium peccatorum. Sì. E quindi è un po' anche qui il segreto della felicità, la serendipità, no? Tutto sembra tragico e poi anche però nel faro dismesso in cui si viene... Sarà il fulcro poi della sarà storia. Sarà il fulcro. Sì. In realtà noi ci immaginiamo appunto Papaleo, Scamarcio, che possa essere tra Basilicata, Puglia, è un sud generico, però è stato girato in provincia di Oristano, quindi le ambientazioni devono sono essere bellissime. Sì. Uscirà ottobre, il 17 ottobre. Anche qui commedie, questa volta, visto che abbiamo parlato di commedie italiane o all'italiana, Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, film di Massimo Venier che ha diretto tanti film comici in questi anni, aspirante vedovo, un uomo che ha un problemi con il bucato, no? No, perché Fabio De Luigi effettivamente ha problemi con la moglie, ha problemi scusa con la moglie. Cosa succede? Che la moglie, Luciana Littizzetto, che è veramente una rompina, muore. Quindi da lì lui diventa felice e contento, scopre però che non è vero, che la moglie è morta, certo. E allora cerca di ingegnarsi come può per eliminarla. Poi già è una storia, devo dire, già vista anche in qualche commedia americana di grande successo. Sì, sì, insomma, non è una storia nuova. Devo dire che però anche qui è la felicità che viene cercata in modi molto così... molto... grotteschi, sì, anche, sì, credo sì, che sì sia così poi. Direi che mi piace. Serie televisive. Serie televisive... Beh, anche qui facciamo una... questa volta non si parla tanto di televisione quanto o di cinema o di finzione quanto di vita vera. Cosa c'è di più bello di un uomo che ha la forza per far sorridere, far ridere, ritornare a lavorare dopo e purtroppo nel suo caso durante anche momenti difficili? Torna sulla NBC Michael J. Fox e questa sì cosa rende felice tutti. Io... che appunto sono una bambina degli anni 80, proprio cresciuta con il mito di Ritorno al Futuro, sono veramente molto felice di questo ritorno. Cosa succede negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti sono la patria del politically correct, ma anche con la capacità di saperlo dosare, di saper dosare l'ironia, di saper dosare anche l'autoironia, cosa che noi non sappiamo fare. Andrà in onda su NBC, il creatore è quello di Cougar Town, quindi altro successo delle serie televisive americane. Michael J. Fox interpreta il ruolo di Mike Henry, che aveva rallentato la sua carriera per passare del tempo con la sua famiglia dopo che appunto gli era stato diagnosticato, come nella vita vera, il morbo di Parkinson. 5 anni dopo, per lui, è arrivato il momento di tornare al lavoro e decide quindi di tornare al suo lavoro televisivo e deve destreggiarsi tra la casa, la famiglia, la carriera e appunto la sua malattia. È un po' il racconto di sé. È un po' il racconto, in qualche modo, la fiction è la sua ispirata storia, comunque sì, un po' certo alla sua storia. E devo dire che è molto stato, atteso. Sì, è molto poi atteso. Credo che sia stato anche un modo per ricoinvolgere Michael J. Fox, no? Sicuramente. Perché, c'è insomma... anche, appunto, gli americani spesso fanno questo, cioè non dimenticano. Quindi quando qualcuno è sicuramente bravo e dotato e gli capita una cosa simile, si cerca ancora di rendere forza al suo mestiere che sa ancora fare e che può ancora fare, è una dimostrazione. È bello, gli americani spesso hanno questo atteggiamento verso sì, gli artisti sì, in sì, generale. Sì, mi piace ad esempio come quando recuperano vecchie glorie facendoli rivivere artisticamente in tarda età in qualche film, sempre molto bello, molto poetico. E io attendo molto Michael J. Fox, perché secondo me questa serie ci farà... Sarà veramente una sorta di ritorno al futuro. Ritorno comunque, al futuro, ecco, nel vero senso della parola. Insomma, la vita spesso è amara, però appunto la felicità... Può arrivare. Può arrivare dietro l'angolo. Azzurro, ci è piaciuto questo azzurro. Azzurro, la musica. Pomeriggio, troppo azzurro, Paolo Conte, lungo, Paolo sì. Conte, Adriano Celentano. L'anno scorso cosa ha combinato Adriano Celentano? Sì. È andato all'Arena di Verona. Sì. Quest'anno chi va all'Arena di Verona? Beh, intanto Luciano Ligabue. Ma chi è il cantante più inossidabile, più allegro per eccellenza? Un amico, peraltro, di Adriano Celentano, che è Gianni Morandi. Io quando penso a un cantante italiano allegro, cioè lui è veramente... proprio inarrestabile. Festeggia 50 anni di carriera. E lo farà lì, all'Arena di Verona? Lo farà all'Arena di Verona, sì. Due concerti. Inviterà 7, tutti, ottobre. Ovviamente. Tutti amici. Inviterà invita tutti cioè... amici. Ovviamente l'elefante della stanza è sempre Celentano. Ci sarà, non ci sarà. Gli deve un bel favore perché Morandi, insomma, gli ha impreziosito non poco i concerti dell'Arena. Però io sono molto, molto curiosa. Penso che il 7 ottobre andrò, perché sono molto curiosa di vedere... questa persona di una simpatia unica, di un'allegria unica, un altro assolutamente autoironico, proprio a livelli, e chi adesso ha voglia di tornare a fare quello che gli piace, che è cantare. Gli è piaciuto presentare, gli è piaciuto fare 2 anni Sanremo. Tra l'altro lui è simpaticissimo. Quando l'ho intervistato la prima volta dopo il secondo Sanremo, già si sapeva che l'avrebbe fatto Fazio, il Sanremo successivo, e gli ho detto, ah, ma Gianni, ci mancherai. E lui mi ha detto, ma no, ma guarda che anche Fabio è uno bravo, stai tranquilla. Sì, non per niente, ecco, siamo a posto. Lui, cioè. lui è straordinario, ha quest'aria assolutamente serafica. E ogni volta mi viene a pensare invece ai cantanti più giovani che se la tirano tantissimo. E invece lui, tranquillone. L'eterno ragazzino, perché poi questo è... No, ma lo suo, è assolutamente... Lui nega, ma lui nega, così, ma è così, ma arrivarci, ma... Allora tutti a tifare Morandi con Marta Cagnola, il, hai detto, ottobre? 7-8 ottobre, 7-8 ottobre all'Arena di Verona. Ciao Marta, a domenica prossima. A presto. Il riposo del guerriero. E il nostro cinegustologo Marco Lombardi, che ritroviamo. Ciao Marco, buona domenica. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, film e cucina, e film e bevande, vini soprattutto, ma non soltanto. Abbiamo parlato di birre la settimana scorsa. Oggi il colore azzurro, che cosa ti ha ispirato? All'inizio col verde abbiamo fatto i salutisti, abbiamo perso qualche chilo, poi l'abbiamo ripresi con gli interessi, con le birre, eppure con granite, gelati, aranciate, perché sembrano acidi, amare, ma comunque c'hanno molti zuccheri. E oggi che rimane da fare? Stiamo al mare, per chi ha la fortuna di esserci, bisogna fare un bagno, bisogna fare un po' di sport, di movimento per ributtare giù quei chili. E qui c'entra molto l'azzurro, perché chi ha la fortuna di stare in spiaggia guarderà davanti a sé e vedrà una distesa di finto azzurro, perché l'acqua, come ben si sa, non è azzurra, ma il cielo la fa sembrare tale. Ecco, scusami se ti interrompo, un po' come il ghiacciolo all'anice, che è azzurro. Io non ho mai visto l'anice azzurra in natura, però insomma è stato deciso che è così, e così ce lo mangiamo. Vabbè, e così comunque. Ma dopo, infatti, l'anice poi insomma ritornerà in qualche modo, ma vabbè, nei colori successivi delle prossime puntate. Comunque l'azzurro, allora, visto che non voglio parlare di gelati al puffo, perché non vorrei avere sulla coscienza un po' di ascoltatori, però non ho ancora capito quali siano gli ingredienti del gelato al puffo, né lo voglio gusto, sapere. Sì. Sapevo solo che il colore è azzurro ancora una volta, va bene, e basta. Infatti. Poi di azzurro in natura non c'è molto, ci sono dei funghi velenosi che sono azzurri, poi ci sono dei blu che sono, non so, ci sono i mirtilli, le prugne, quindi per me l'azzurro sarà una cosa sbagliata, ma io lo sento così, fa pensare al mare. Il mare mi fa pensare naturalmente al pesce, ma non al pesce cotto, ma al pesce crudo. Io sono un amante del pesce crudo, e secondo me il pesce crudo, anche se non è per nulla blu o azzurro, anche se poi c'è il pesce azzurro di cui adesso parleremo, ha a che vedere col blu. Non so, io quando mi vedo un plateau di crudi di mare, vedo blu, ecco. Non sarà anche qui una disfunzione cinefila della vista, ma così è. E allora sì, c'è innanzitutto il pesce azzurro, è dato da tutta una serie di pesci considerati poveri, ma che di fatto sono molto ricchi in sostanze nutrienti, si arrivano da dei mari giusti, tra tutti il pesce numero uno e sono le alici o le acciughe, che poi sono la stessa cosa, dipende dal, anche qua dai gusti lessicali. Le acciughe crude le troviamo quasi sempre ipersalate, sono anche conservate in sale, e quindi questa fortissima componente salina, unita al fatto che l'alice è carnosa, ha una sua consistenza veramente la carne, non so, adesso sarà forse, mi sto preparando a uno dei registi che arriva dopo, ma un po' da giallo tendente all'horror metafisico. E me fa pensare l'alice o l'acciuga al cinema di François Truffaut, uno dei grandi della storia del cinema di sempre, uno dei grandi della Nouvelle Vague francese degli anni 60, perché Truffaut da una parte è profondamente carnale, passionale, tutte le sue storie sono storie a volte anche disperate, ma dove si sente veramente la carne e il sangue, ecco, che sono molto poco azzurre, però insomma hanno sempre il richiamo del mare, e danno questa fortissima componente salata, perché sono sempre storie, ahimè, non serene, a partire da Jules Jim, uno dei capolavori anche questo della storia del cinema di sempre, questa storia triangolare che detta così fa pensare a qualcosa di erotico, ma è profondamente drammatica. Le due inglesi, che è anche un altro, è un film meno conosciuto, è una specie di educazione sentimentale alla Truffaut, dove di fatto c'è grandissima difficoltà e sofferenza nel passare l'età dell'adolescenza ed entrare a pieno titolo nell'età adulta da parte di due inglesi che dovranno un po' dismettere i panni dell'inglese in senso culturale, quindi entrare nella vita e sporcarsi le mani. E poi Effetto Notte, che è un grande film anche fantastico, Il racconto di un set, forse questo è un film un po' più rotondo, il sale dell'acciuga qua si sente meno e si sente moltissimo la carnalità. E poi un altro dei film connotato da una famosa frase, né con te né senza di te, di una storia d'amore impossibile, La signora della porta accanto, del 1981. Matilde, la vogliono al telefono. Me? Sì. Pronto? Ma non capisco, non c'è nessuno. Sì, ci sono io. Voglio vederti da solo. Incontriamoci all'albergo tra poco. Ma non è possibile. E allora adesso nella mia macchina, ho bisogno di parlare. Ma dici sempre così, e poi quando ci vediamo non c'è niente da dire. Non ti chiedo tanto. Ecco, quindi insomma, mai questo tempo di parlare, e lo trova con questo escamotage, ma a quanto pare è un rapporto impossibile. Sì, e poi è incredibile questa battuta, di solito sono le donne che dicono agli uomini ma non abbiamo mai il tempo di parlare, stavolta è il contrario, vabbè, è un rimescolare le carte dei sessi. Quindi siamo partiti dalle alici e adesso ci finiamo, e non per parlare di Pinocchio, al tonno. Sì, forse qua mi rendo conto che le associazioni sono un po' molto personali e abbastanza deviranti. Ma devono esserlo, giustamente. Sarà colpa anche del sole estivo, oppure dell'età, o tutte e due le cose insieme, ma a me il tonno fa pensare a Hitchcock. Io quando vedo un pezzo di tonno, che sia un carpaccio tagliato come una fettina di prosciutto, oppure un cubetto di tonno, mi viene un po' per la squadratura di come appunto si pone il tonno, soprattutto se è un cubetto, mi fa pensare al coltello che l'ha tagliato, un po' come, non so, si vede anche il tonno sui cubetti di sushi nei ristoranti giapponesi. E quindi innanzitutto ho questo tipo di idea proprio del taglio, il taglio che mi fa pensare innanzitutto a Hitchcock, appunto il tonno, e in particolare a Psycho, capolavoro del 1960, dove di coltelli insomma ce n'è uno che insomma ha fatto anche questo, accompagnato anche da una musica, da una sonorità molto famosa. E qui va avanti un po', insomma, la scena è davvero molto molto famosa, e mi viene in mente una cosa, tra l'altro, Marco Lombardi, che non è solo il tonno, ma in generale il sushi, comunque il pesce crudo, si lega al coltello, insomma, perché anche la gestualità, no, di chi lo prepara è legata proprio al coltello molto affilato e a questi gesti che insomma ci fanno trovare poi il pesce crudo in tavola e ce lo fanno gustare. Sì, che poi non è solo una componente scenografica, perché io adesso sono abbastanza ignorante in materia, lo dico da consumatore, però so che il modo in cui viene tagliata vengono tagliate appunto le fibre di carne possono determinare o meno il gusto, oppure di altre, quindi è importantissimo. Non, come si chiamava Hattori Hanzo in Kill Bill, vabbè, lì erano altri tagli di carne umana, e Uma Thurman comunque ne sa qualcosa, che è riuscito riusciva a tagliare di tutto e di più con quel tipo di spada. L'abbiamo visto, ma ci siamo anche molto divertiti con quel film. Okay. Ebbene sì. La donna che visse due volte, ti anticipo perché immagino lo citerai, Parano di Hitchcock. Ebbene sì, mi hai letto nel pensiero, conosci i miei gusti, e beh, un altro capolavoro. Questo è un tonno a livello più non tanto di taglio come in Psycho, ma di consistenza. È un film tenero, alla fine è una grandissima storia d'amore questa, anche se ha dietro un giallo discretamente truculento, alla Hitchcock, che è sempre comunque un autore controllato quando parla di omicidi. E questo è del 58 e insomma, quindi la tenerezza, la morbidezza del tonno rientra in questo film, secondo me. Mentre poi c'è un altro film del 64, Marnie, che mette in scena un po' lo schema molto cinematografico del trauma, che è quello che determina poi la motivazione criminosa del protagonista. Se uno vede un film di Dario Argento, sono sempre così: è successo qualcosa nel passato e quindi una persona compie le peggio cose perché deve spiare quel determinato episodio. Marnie è così, è una storia di una cleptomane, e anche nel ricordo che lei ha, e lo vedremo nel finale del film, c'è molto sangue, e quindi è un film sanguinolento anche a livello proprio di sofferenza. E insomma, il tonno, chi ha mai visto un tonno appena pescato e tagliato, il tonno ha il sangue umano proprio, e anche il colore della carne richiama molto il sangue. Quindi insomma, questi tre film mi fanno pensare a un tonno hitchcockiano. Chissà se a Hitchcock piaceva il tonno, non ho idea, vabbè. E poi dal tonno, prima lei dice il tonno e adesso arrivano i gamberi, i gamberi rossi, gamberoni, gamberetti, insomma quelli di media dimensione, ecco, che in effetti in Italia non è che si usino tantissimo crudi, sono più consumati in Francia, rientrano appunto nei plateau del crudo. Il gambero crudo secondo me è ancora 10 volte meglio di quello cotto. Ha una consistenza questa ancora tenera, un po' come il tonno, però c'è anche molta croccantezza. Adesso dipende dal tipo di gambero, però la parte esterna spesso e volentieri proprio produce una sonorità quando mastichiamo il gambero, che dà una componente secondo me di ironia. Quindi morbidezza, ironia data dalla croccantezza, questa colorazione che sembra un pesce che si è messo a giocare a pallone con questa maglia a strisce orizzontali bianche e rosse. Anche qui l'azzurro dobbiamo evocarlo in maniera insomma lontana. E qui la follia mi porta ad Almodovar, ma ad Almodovar non quello centrale, molto melodrammatico, di Tutto su mia madre, di Parla con lei, ma l'Almodovar della commedia, quella leggera, degli inizi e dell'ultimo, ovvero sia Pepi, Lucy e Bom e le ragazze del Mucchio del 1980, la sua opera prima, dove c'erano proprio queste componenti morbide, ironiche, croccanti, sensualmente dolci della sua commedia, trasgressiva, dove il sesso diventa veramente un'occasione di divertimento e non di erotismo. E poi l'ultimo film, dove Almodovar ha dichiarato proprio di aver ripreso quel filone della commedia, Gli amanti passeggeri, film che forse in qualche arena estiva è ancora visibile. Gli ascoltatori che hanno la fortuna di essere al mare, anche qui diano un occhio, perché è possibile che incrocino questo film giocosamente gay, l'ultimo di Almodovar. E poi, insomma, quindi acciughe, il tonno, i gamberi, e beh, cioè adesso arriviamo al king dei crudi, che è una cosa che divide profondamente, o piace infinitamente, o veramente da conato di vomito. Insomma, ha un sacco di amici che in cene ho provato a dire, vai, assaggia questa ostrica, e insomma, l'ostrica ha una tale consistenza che può veramente indurre anche un senso di repulsione. L'ostrica di fatto è profondamente erotica, ha questa scivolosità, non devo dire altro, ma che fa evidentemente pensare. Sei stato molto chiaro, ecco. Esatto, assenza di attrito, diciamolo in termini un po' più scientifici, oppure attrito molto basso. Insomma, questo viscido che può veramente dar fastidio, inquietare. Oltretutto, poi l'ostrica ha la parte esterna che è molto duretta, le ciglia, ma la parte interna dipende dal tipo di ostrica, ma prendendo quelle un po' più comuni, ad esempio le fin de Clair, è molto grassa, quindi è burrosa quasi. Quindi l'ostrica a livello di consistenza c'ha tutta una sua sensualità fortissima. A livello di gusto, c'è appunto questa grassezza, questa dolcezza, ma è anche profondamente salata, perché il mare nell'ostrica lo si sente proprio. Chi sembra, sì, uno sembra di mangiare il mare, è vero. Sì, ecco. La prima nuotata che uno fa quando non sta ancora, non sa nuotare, si fa la classica bevuta, ecco, mangiando. Quello è il gusto. Senti, a che film li hai associati? Sono molto particolari, anche questi sono film che o piacciono o non piacciono. Sì, però bisogna riconoscere oggettivamente che Kinky Duck, per questa è la pronuncia, sì, cioè di questo sudcoreano che nonostante abbia vinto tutti i premi in tutti i festival del mondo non parla una parola di inglese, non una di francese, sembra un'ostrica anche nella vita proprio, gira sempre con l'interprete che gli traduce tutto in sudcoreano, può piacere, non piacere, però è un autore che ha molte cose da dire, è un pazzo scatenato, è uno che mette insieme esattamente le componenti dell'ostrica, una grande ironia data da questa croccantezza, una grande durezza perché affronta sempre temi molto duri, una grandissima sensualità, perché i suoi film hanno una passionalità da ogni punto di vista senza limiti e freni, e poi insomma un essere fuori dagli schemi, una follia che è un po' anche la follia dell'ostrica, che sta fuori da tutti gli schemi di tutti gli altri crudi possibili e immaginabili. Lui è straprolifico, fa un film all'anno adesso, non negli ultimi anni perché ha avuto dei problemi suoi personali e quindi c'è avuto un blackout di 3 anni, ma Bad Guy, che è uno dei primi del 2001, Primavera, Estate, Autunno, Inverno, di nuovo Primavera è uno dei suoi più conosciuti ed anche uno dei suoi più canonici, L'Isola, dove c'è una famosa scena oltretutto del protagonista che si mette un amo in bocca e fa finta di essere un pesce e si pesca da solo, detta così sembra una cosa bruttissima, lo è anche visivamente, ma insomma il crudo direi che ci rientra molto bene. Poi Ferro 3, che è forse uno dei suoi film del 2004 più equilibrati, con un'idea narrativa di fondo folle ma estremamente efficace, un ragazzo che gira nelle case altrui e si introduce nelle case altrui quando sono vuote, quando le persone sono via per in ferie o per lavoro, e vive le case, invece di andare a rubare rimane in queste case e tipo aggiusta l'orologio che non funziona, mette a posto, sì, esattamente, ed è un modo proprio per entrare nelle vite degli altri, alla fine è anche un po' una simbologia. È il mio film preferito di sempre, fra l'altro, uno tra i miei 3 film che consiglierei a tutti di vedere assolutamente. Grazie Marco Lombardi, cinegustologia.it, a settimana prossima. Il riposo del guerriero. Le suggestioni del gastronauta. Eccolo qua il nostro gastronauta, oggi è l'azzurro e quindi mi viene in mente subito il mare, il piacere, insomma oggi di questo si parla, la felicità. E devo dire una cosa, quando si parlava prima di andare in onda con Davide Paolini, ciao Davide, buona domenica. Ciao anche a te. Lui mi diceva, mi piacciono quei posti dove si mettono i piedi nell'acqua intanto si mangia, ma lo dicevi nel senso davvero nell'acqua, è solo una suggestione perché si è molto vicini L'uno e l'altro, perché se tu mangi ci sono certi posti dove si può mangiare in spiaggia, quindi hai la sensazione di mettere veramente i piedi nell'acqua. Ecco, d'estate è una cosa che a me piace in maniera incredibile, ovviamente se sono al mare, perché se sono in montagna o in città è un po' dura fare questo, ma forse c'è anche in qualche lago si può mangiare coi piedi nell'acqua, nel senso che si è proprio a ridosso del lago. E quando penso questo penso sempre a un ristorante che per me vuol dire piacere ma tantissime altre cose, è la Pineta a Marina di Bibbona, Marina di Bibbona e in Toscana, in Maremma, e devo dire che veramente è il piacere, perché c'è la spiaggia, c'è un pesce sicuramente freschissimo, c'è un cuoco patron che di quelli che sono simpatici, appunto, che ti dicono vino, pane al pane, ed è proprio tra l'altro anche pescatore, quindi puoi anche dialogare con lui. Ecco, lì mi sento veramente, nel momento in cui mangio, mi sento felice in quel momento lì, mi sento contento. Ecco, e la felicità e il piacere di mangiare anche in montagna, però, insomma. Sì, certo, ecco. Stavo dicendo, mi è venuta in mente l'acqua, perché d'estate sì, immagino l'azzurro, l'acqua, poi quello ricorda, sì. Ecco, anche a parte anche il cielo, e in montagna sono bei posti. Ecco, cosa si mangia d'estate in montagna secondo te? Ma sai, in montagna la temperatura non è quella, diciamo, di altissime, sì, in certi posti. Però di sera si rinfresca, sì, sì, sì. E quindi si mangia, certo che canederli è un po' dura poterle mangiare, o magari anche, non so, delle costate oppure l'agnello o d'altro. Quindi sì, è vero, però ogni tanto si ha il bisogno di, in montagna, di mangiare delle cose che siano sostanziose, perché al mare probabilmente stai sdraiato a prendere il sole, in montagna delle volte fai delle lunghe camminate, quindi c'è bisogno anche di energia, c'è bisogno anche di mettere, diciamo, del carburante nel corpo. Quindi ecco, mi viene in mente che divertente, felicità, come dici tu, questo colore azzurro, io lo penso da Michil Costa, a questo in questo albergo appunto di montagna, dove c'è una cantina che è un qualcosa di talmente di divertente che vale la pena di fare sicuramente un giro. Sì, si chiama La Perla, questo hotel. Entri dentro, saranno qualche centinaio di metri la cantina, che inizia con la prima porta, senti Singing in the Rain, ed è diciamo la canzone dove si balla, e vedi tutte le bottiglie di spumante ballare. Poi vai avanti, apri e senti una musica americana, perché entri dentro alla, diciamo, all'area dei prodotti americani o dei gin o dei distillati. Poi vai ancora e entri dentro a un sacrario, che è il Sassicaia. Sì. Sassicaia è il vino famosissimo, dove in questo luogo c'è la prima bottiglia del 68 che non ha quasi nessuno, e c'è un tabernacolo che si rigira, viene fuori questa bottiglia del 68 e c'è un ginocchiatoio davanti. C'è un teatro. È un teatro. È la cantina teatro forse più geniale del mondo, e ha anche migliaia di bottiglie. Non capisco come facciano a ballare le bottiglie. Cos'è che ha costruito? Ballano, ha costruito un movimento dove sono inserite dentro, con forse un motorino, sì, che li fa vibrare. Quindi vibrano e sembra che ballino. Sì, sono anche vive, visto che ha le bollicine. Salvo lì, quando le stappi, il tappo parte proprio. Bisogna lasciarle posare un po'. Devo dire che è veramente molto, ma molto divertente quella cantina. Dov'è questo posto ancora? Questa qui è la Perla di... ora mi viene in me, poi mi veramente va bene, La Perla, cioè, con internet poi oggi si può fare tutto, grazie al cielo. Parliamo di pesce invece, l'azzurro mi viene in mente appunto l'acqua, la felicità, ma anche il pesce, e pesce di lago e pesce invece d'acqua salata. Ma dunque, il pesce di acqua salata, io adoro il pesce azzurro, non ci sono dubbi su questo. Adoro il pesce azzurro perché, secondo me, non perché è meno caro, ma perché è molto più gustoso. Molto più gustoso, si ha la sicurezza di trovarlo fresco, si ha la sicurezza che costa meno, si ha la sicurezza che, diciamo, l'omega 3 è veramente in alta misura presente, e quindi secondo me è il massimo. Poi c'ha un sapore gustoso, cioè pesci come l'ala lunga, come il sugarello, le acciughe, dicevo prima, ce ne sono tanti di questi pesci che fanno parte del mondo degli azzurri, il tonno stesso, però il tonno sappiamo che è un pesce molto in via di estinzione, quindi bisogna, diciamo, usarlo con grande attenzione. La palamita è un altro palamito, lo chiamano da altre parti palamita in alcune regioni, palamito da altre. Sono pesci che sono succedani dei grandi pesci, secondo me sono sicuramente da preferire, anche perché in questo momento usando questi pesci si salvaguardia diciamo il mare e i pesci, perché molti sono in via di estinzione e molti oggi sono allevati, quindi io preferisco questi pesci all'allevamento in acquacoltura, e non è che abbia niente di contrario all'acquacoltura, però fino a quando c'è un pesce di mare, diciamo, vero, preferisco sì, quello. E invece i pesci di lago? Io non amo molto i pesci di lago, devo dirlo, però cioè il salmerino sicuramente è un pesce apprezzabile e mi piace, però se devo scegliere tra pesce di mare e pesce di lago, preferisco il pesce di mare. Però il salmerino ritengo che sia molto interessante. Ultimamente mi hanno fatto assaggiare il caviale di salmerino, cioè le uova, e devo dire che le ho trovate veramente eccellenti, e non ci credevo, ma lo ammetto, mi sono dovuto ricredere. Mollusche e frutti di mare. Vabbè, qui andiamo nel massimo. Che dire, come si fa a rinunciare a un'ostrica lì davanti, oppure a chi piace, ovviamente, agli scampi, ai gamberi, cioè sicuramente è un pesce straordinario. Io non vado pazzo per l'aragosta, per esempio. Sì. Non amo l'aragosta, però amo un pesce che si chiama battibatti, che è una cicala di mare molto particolare, che per me è il miglior pesce che ci sia, quello che più di ogni altro adoro, assieme alla mupa. La mupa è un pesce di fondale dai 300 ai 700 metri, E ecco, questi due sono i miei pesci preferiti. E voilà, mi è venuto in mente. Eccolo, che cosa? La perla di Corvara. La perla di Corvara, siamo? Siamo in Alta Badia. Ecco, per cui insomma siamo al nord della famiglia Costa, ricordavo la famiglia Costa, ricordavo tutto, chissà perché, è un lapsus in questo momento. Devo dire che le bottiglie che ballano le voglio assolutamente vedere, va bene. Grazie Davide Paolini, ci sentiamo, ci vediamo ovviamente anche la settimana prossima. È tutto per questa puntata del Riposo del Guerriero versione estiva. Oggi abbiamo parlato dell'azzurro, invece la settimana prossima parleremo di un altro colore molto estivo, che è il bianco. Il bianco l'abbiamo legato alla cultura, al piacere di imparare e di conoscere proprio durante l'estate. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Pietro Lacorte in regia. A voi buona settimana da Stefano Gallarini.